Europa 24. Cari amici, un buongiorno da Gigi Donelli. Dunque, notizie europee ovviamente in primo piano, resta più che mai, visto che siamo all'inizio di questa doppia giornata di vertice europeo, dunque resta più che mai sul tema dell'immigrazione. Come avete già sentito da Simone Spezia, i ministri degli interni sono loro i protagonisti oggi, stanno entrando uno dopo l'altro nel palazzo della Commissione a Bruxelles. Intanto la situazione sul campo, gli aggiornamenti vedono da un lato alcuni tafferugli alle frontiere, ma anche la notizia poco fa Deutsche Bahn, dunque la società delle ferrovie tedesche, che sospende la linea ferroviaria Monaco-Vienna-Budapest fino al 4 ottobre come contromisura alla crisi che colpisce l'Europa. Dicevamo, ministri degli interni che saranno protagonisti oggi, domani sarà la volta dei capi di Stato e di Governo, quindi chiudere, definire l'accordo, se accordo ci sarà naturalmente. Le posizioni restano distanti, come peraltro è normale, altrimenti non ci sarebbe l'esigenza di questa complicata trattativa. Alcune posizioni esplicitate nell'ultima ora: da una parte la Repubblica Ceca, che dice per voce del suo ministro degli interni Milan Chovanec, dice no, noi non accettiamo questo accordo, questo obbligo di ridistribuzione, dice si tratta di un gesto politico vuoto e siamo certi, aggiunge, che il sistema della redistribuzione dei profughi non funzionerà. Posizione diversa, anzi opposta, dal rappresentante spagnolo, che ha detto siamo pronti all'accoglienza, siamo pronti alla distribuzione, perché questo di fatto è il concetto in discussione in queste ore. Nello stesso tempo è importante, perché il tema si lega strettamente, da parte della Commissione europea stessa arriva una sorta di stretta sul rispetto delle regole dopo le lettere amministrative delle settimane scorse. Bruxelles annuncia l'apertura di procedure di infrazione per mancata comunicazione, registrazione dei migranti. Che cosa significa sostanzialmente? Stiamo parlando da parecchio tempo ormai di questi famosi hotspot. Gli hotspot non sono altri che dei luoghi in cui le persone vengono orientate, i migranti vengono orientati, e in quel luogo vengono prese le impronte digitali, vengono registrati. Questo è di fatto il cambio che viene chiesto da paesi come la Germania a paesi come l'Italia e la Grecia sul piatto appunto dello scambio, della ridistribuzione degli immigrati. Dunque si va avanti un'ora dopo l'altra, naturalmente tutti gli aggiornamenti nel corso della giornata di oggi e domani. Adesso invece sentiamo, per quanto riguarda proprio la cronaca dei movimenti dei migranti, il servizio di Valentina Forlanetto. Mentre si attende da Bruxelles una parola definitiva sulla ridistribuzione d'urgenza dei profughi, dei 120.000 a nuovi rifugiati in tutti gli Stati membri, da Parigi arriva un dossier dell'OCSE sui rifugiati in Europa. Un'ondata di 1 milione di rifugiati, prevede l'organizzazione, con costi umani spaventosi e inaccettabili, si riverserà sull'Europa quest'anno. Secondo l'OCSE si toccherà un livello senza precedenti di richiedenti asilo e rifugiati, con un numero di procedure in crescita fino a 1 milione. L'immigrazione permanente è paragonabile, scrivono, a quella osservata negli Stati Uniti. E tuttavia l'impatto si concentra ancora una volta in pochi paesi. In prima linea Italia, Grecia e Ungheria, ma poi i paesi di destinazione finale sono altri. La Germania in termini assoluti e poi Svezia e Austria in termini relativi rispetto alla popolazione. Per l'Italia si registra un calo. Il numero di rifugiati nel nostro paese è sceso del 57% rispetto al 2007. Tutto questo mentre si attende appunto da Bruxelles il Consiglio straordinario convocato dai ministri degli interni. Dall'Italia dovrebbero partire 15.000 richiedenti asilo, 50.000 dalla Grecia, mentre l'Ungheria si è chiamata fuori. Tutto questo mentre continuano le tensioni al confine tra polizia croata e profughi nel villaggio di Opatovac. Questa mattina ci sono stati dei tafferugli. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Insomma, trattativa in corso, in pieno in queste ore. Un'ultima notizia ci aggiorna sulla posizione di Varsavia. Varsavia, dunque, la Polonia ha deciso di accettare 2.000 rifugiati, ma ha rifiutato la quota stabilita dalla Commissione, che ne prevede altri 9.000. Trattative dunque in corso, mi raccomando, aggiornamenti costanti nel corso della giornata di oggi e domani, naturalmente in tutti i programmi di Radio 24. Per ora per noi è tutto. Europa 24 torna stasera, come sempre, un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.